C'è una crescita fortissima di nuovi adepti al commercio elettronico. Ormai fatto a 100 il numero di internauti, il 30% di quelli che vanno su internet compra online. Ci sono circa 24 milioni di persone che vanno online su internet e circa 5 milioni di persone che acquistano. La crescita è del circa 30-35% anno su anno, sia da parte del numero di utenti che si aggiungono a quelli precedenti per acquistare online, sia di nuovi siti che offrono prodotti online. Crescita sostanziale, quindi dal lato sia della domanda che dell'offerta. Crescita però insufficiente rispetto a quello che avviene negli altri paesi. Siamo indietro da un lato come numero di utenti che comprano online rispetto alla Francia. Un esempio per tutti. In Francia e in Italia ci sono lo stesso numero di internauti. In Francia la metà degli internauti compra online, in Italia solo un terzo. E di fatto l'acquisto online fatto in Italia ha un valore che è mediamente la metà di quello che viene acquistato in Francia. Quindi ci sono ancora elementi di reticenza, fatti da elementi di reticenza culturale, elementi di paura dell'utilizzo degli strumenti di monetica elettronica, e ovviamente ci sono anche quegli altri aspetti di abitudine all'acquisto del punto di vendita fisica, che spesso dà un'esperienza d'acquisto che è migliore o più interessante per molti degli italiani rispetto all'esperienza di acquisto che si fa su un sito. Che cosa si compra? Sappiamo che fino a qualche anno fa e probabilmente anche ancora oggi la parte principale è fatta da servizi, viaggi in modo particolare. Che cosa sta cambiando da questo punto di vista? Si conferma quello che è avvenuto negli ultimi anni. I viaggi, la biglietteria aerea e ferroviaria rappresenta circa il 50% di quello che viene acquistato online. In termini numerici si comprano anche molti prodotti dell'ICT, quindi telefonia piuttosto che computer, e anche molti libri e CD. È chiaro che i libri e CD, che sono la terza merceologia, rappresenta però, siccome il prezzo medio di un libro è inferiore rispetto a un viaggio, in realtà in termini di volumi, di numeri, di prodotti venduti e acquistati, i libri e CD rappresentano una fetta consistente dei 16.000 ordini che annualmente vengono eseguiti dagli italiani online.